note di questa canzone dall'album Still the Light. La formazione è quella di Seattle, chiamata Q5. Siamo nel 1984, li abbiamo proposti con Lonely Lady. Andiamo invece a New York, band di epic metal che ha fatto del vero metal la propria bandiera e che ha un enorme seguito in tutta Europa. Sto parlando dei Manowar. I due leader sono il cantante Eric Adams e il bassista Joey DeMeo, quest'ultimo anche cofondatore della band. Il loro esordio risale all'82 con l'album Battle Hymns. La loro discografia presenta ottimi album, tra cui Kings of Metal, Into Glory Ride. L'album Fighting the World, invece, che prendiamo in considerazione, è uscito nell'87. Celebri sono la title track Defender, nella quale ricordiamo esserci una parte narrata dal famoso Orson Welles, e la canzone di stasera che viene spesso interpretata nei loro concerti. Per quanto riguarda la copertina che ha ispirato la schermata iniziale del famosissimo videogioco Turrican per il C64 ed Amiga 500, vecchie console, vecchi computer da gioco, ed inoltre da questa copertina in poi sarà presente negli album in studio Il Guerriero Senza Voto. L'album è appunto Fighting the World, il pezzo si intitola Black Wind, Fire and Steel.